45. Gemello sinistro è il ghiaccio. È il signore dell'inverno, freddo, scivoloso, tagliente cristallo di rocca. È una tempesta da nord-ovest, gelo che si insinua tra le fessure delle baracche. Uomo di ghiaccio, cuore freddo-freddo, specchio di pietra. Alcuni dicono che la sua vera natura sia il turbine. Gemello destro è il fuoco. È il signore dell'estate, caldo, umido, morbido terriccio. È vento tiepido da sud-est, è fiamma che fa bollire l'acqua e cuoce il cibo, padrone della vita, reggitore del cielo, Dio Padre. Alcuni dicono che la sua natura sia il raggio di sole. Anche distruzione procede da sud-est, ma è una nuvola carica di grandine che avanza occupando il cielo. Dalla pancia piovono lampi, i suoi messi devastano la terra. Nella nuvola c'è il fuoco, ma non appartiene a gemello destro. I bianchi ne hanno usurpato la direzione. Da quando passarono l'oceano tutto è confuso e da est giunge spesso il lutto. Il rum, il vaiolo sul suo cavallo scheletrico e ora questo, colonne di fucili, baionette e cannoni. Il fuoco spinge il cuore dell'uomo bianco. Sangue incessante, frenetico, nutre sterminate distese d'uomini, più di quanti sia possibile immaginare, più del più grande stormo di colombi migratori. Attendono distruzione. Per riversarsi come locuste e porre fine ai nostri giorni. All'imbrunire di un giorno breve e freddo, il generale Sullivan prese la decisione. Una pioggia livida cadeva sulla celata e sul tricorno. Le froge del cavallo mandavano sbuffi di fumo. Gli uomini procedevano a capo chino. Niente tamburi, niente pifferi, le bandiere impregnate d'acqua. Stanchezza. Oltrepassata Genisio, la tappa successiva non poteva essere che Niagara. Guarnigione inglese, profughi, molti guerrieri. Avevano certo ricevuto provviste, armi e munizioni dal Canada. L'inverno si preannunciava lungo e gelido. Sarebbe stato un assedio terribile, non solo per quelli all'interno. Sullivan pensò a mesi e mesi davanti al cuneo di fortificazioni. Le mura erano solide. Là anche i tori avevano i cannoni. Sullivan ripensò agli ultimi avvenimenti. La guerra tra genti diverse, senza nessuna legge comune, è per forza crudele. Gli episodi di pietà sono assenti. L'anima bestiale si mostra nelle forme più ripugnanti. Sullivan rivide il corpo del tenente Boyd legato a un albero, all'entrata di Genisio, decapitato, sviscerato in modo che le interiora fungessero da legaccio e macabro ornamento, orrida offerta ai demoni dei selvaggi. Sentì nel profondo dell'anima che l'impresa andava portata a termine, con intelligenza e freddezza, per liberare la futura nazione da vicini così scandalosi, così immorali. Sullivan aveva deciso. Si tornava indietro, proprio per non contravvertire all'ordine di Washington, devastare in maniera definitiva il territorio delle Sei Nazioni, spargere il sale sulle rovine dell'Enda Cartago. Ogni casa doveva essere distrutta, ogni campo rovinato, ogni traccia della presenza di indiani cancellata. La cosa giusta da fare, deviare a est, verso Cayuga e la valle del Mohawk. In certi momenti la saggezza è follia e l'incoscienza è l'unica saggezza. La morte di un uomo dona vita ai vermi e alle larve. Anche queste muoiono e dalla terra grossa sorgono i fuochi dei villaggi. Bambini succhiano latte, giovani si dipingono la faccia pronti a dare la morte. Donna del cielo chiese ai gemelli: «Sapete da dove provenite? E sapete dove andrete?» quando il vostro viaggio su questa terra sarà terminato? Gemello destro rispose, «So da dove veniamo. È dal cielo che siamo giunti, dal mondo al di sopra delle nuvole. Non lo dimenticherò. Quando verrà il tempo, tornerò nel luogo da dove sono giunto». Donna del cielo si compiacque. «Ti chiamerò reggitore del cielo». Poi si rivolse all'altro. Gemello sinistro disse, «Che bisogno ho di sapere da dove vengo e dove andrò quando lascerò la terra? Non datemi il mal di testa parlando di un altro mondo, perché adesso sono qui, sono giovane, sono forte, e qui in giro ci sarà da divertirsi». Facevano sempre così, seguire l'armata, completare il lavoro. Sullivan si preoccupava di devastare, distruggere, sradicare. Il saccheggio non era troppo accurato. Dietro l'ultima retroguardia cominciava il lavoro degli irregolari. Quando i soldati avevano oltrepassato l'orizzonte o si erano persi nella pancia fitta del bosco, le donne che erano riuscite a fuggire tornavano, per prime le più coraggiose. Giungevano alla spicciolata. Se ti concentravi sul primo gruppo, avevi tutto il tempo di fare i tuoi comodi. Bastava rimanere al coperto, spiare i movimenti, vedere dove i selvaggi avevano nascosto le cose più preziose, Di solito le seppellivano. Allora Nathaniel Gordon e i suoi uscivano allo scoperto. Iniziava la danza. Non c'è guerra senza saccheggio. Non c'è saccheggio senza stupro. Un buono stupro va coronato con l'uccisione. I cadaveri delle donne sembravano vuoti manichini. Le zone di carne esposta al vento del nord erano livide, oscene. La più giovane rivolgeva gli occhi al cielo. Sembrava domandare qualcosa. Klug contava le monete d'oro estratte da un forziere in legno e pelle. C'erano bei soldi là dentro. Si ripeteva che la sua scelta era stata giusta. Cacciato dalla milizia, aveva pensato che occorrevano ancora un po' di guerra e di scalpi per tornare a German Flat da patriota. Buttò un'occhiata intorno. Nathaniel Gordon dava ordini agli altri. La guida Delaware rideva e correva dietro un cane. Il cappello con le orecchie cadde e rotolò nella polvere. A un certo punto il cane si fermò, girò su se stesso, zampe dritte, incominciò ad abbaiare e digrignare i denti. Il Delaware gli sfondò il cranio con il tomahawk. «Cristo, cosa stava facendo il selvaggio?» Aveva tirato fuori il coltello. Gli aveva aperto la pancia. Lo stava scuoiando. La carcassa aveva i muscoli e il rado grasso esposto al freddo. Gli altri avevano acceso un fuoco. «Ne vuoi anche tu, Klug?» «Cristo, no, non mangio roba da selvaggi, per Dio!» Nathaniel Gordon ridacchiò. «Si vede che sei un contadino, Klug. Eppure pensavo che queste settimane ti avessero svezzato.» Puntò occhi freddi in quelli del tedesco. «Per quanto mi riguarda, questa carne è buonissima.» Addentò un brano del cane scoprendo denti giallastri. Masticò con espressione compiaciuta. «Dopo aver fatto la guerra, mi viene una fame del diavolo. Metterei arrosto anche cuccioli di selvaggio se ne trovassi.» La compagnia scoppiò a ridere. Il Delaware si pulì i denti con la punta del coltello. Nathaniel Gordon proseguì. «Andiamo, Klug, non sai cosa ti perdi. Non vorrai offendere il nostro amico primitivo.» Klug espirò con forza. I suoi compagni facevano paura. Troppo facile dispiacere a quella gente, eppure non si era tirato indietro nemmeno nelle imprese più ripugnanti. I corvi facevano giri larghi sopra il fumo delle macerie. Una nube di vapore si formò davanti a bocca e narici, svanendo in fretta. Klug deglutì e accettò un pezzo di carne. Lo portò alla bocca e prese a masticare.